Noi possiamo passare settimane a vedere documentari così che ci fanno vedere l'orrore della storia, l'orrore del cattivo modo di pensare, del male pensiero. Se noi facessimo solo questo non penseremmo bene, perché ci ammaleremmo. Sarebbe cattivo pensiero. Il pensiero corretto è il pensiero che discerne, sa distinguere. Quindi adesso bisogna vedere l'altra faccia della medaglia. Adesso andiamo a vedere quell'altro, chi di voi lo sa. Vediamo invece un altro filmato che è stato fatto recentemente, in cui si fa vedere come la crisi in cui oggi siamo, ve l'ho descritta prima. Adesso andiamo a vedere come alcuni reagiscono a questa crisi. Ci sono 500 imprese in Europa che stanno praticando i principi dell'etica umanistica, cioè del rispetto pieno dei dipendenti, dei clienti, in cui gli imprenditori dichiarano che si sono autolimitati lo stipendio, 3 volte quello dei loro operai o 5 volte quello dei loro apprendisti. E lì hanno però creato dei luoghi di lavoro dove la gente ha veramente voglia di andare. E poi vi farò vedere cosa è successo in Argentina. In Argentina è successa una cosa simile al Cile, anziché Pinochet c'era Vileda, ma anche là, vi ricordate i desaparecidos, persone scomparse, sparivano, li prendevano, basta, via. Ecco. E anche lì invece c'è stato un movimento che ha fatto sì che i lavoratori prendessero delle imprese che erano fallimentari e le portassero a diventare parte dell'economia produttiva. Quindi c'è un modo di pensare male all'economia che è tossico per l'umanità, ma non solo per l'umanità, per gli animali, per le piante, per il pianeta, per il futuro dell'umanità. E c'è un modo di pensare l'impresa che invece è positivo. Ecco, quindi le vecchie ripartizioni, padroni, schiavi, queste cose qui sono vecchie robe, perché i padroni e gli schiavi ci sono anche in famiglia, ci sono delle donne che lavorano in quantità di ore enormi in famiglia non vengono riconosciute dai loro partner. Che cos'è? Schiavitù quella lì, no? È schiavitù in famiglia. C'è la schiavitù in famiglia, c'è schiavitù nel lavoro, dappertutto. Quindi quello che oggi capiamo, rispetto a un po' di tempo fa, è che la schiavitù o la pari dignità inizia nel cuore umano di ciascun uomo. Una persona libera al suo interno non diventa mai uno schiavo, è impossibile. Piuttosto si fa ammazzare. La storia di Nelson Mandela, morto recentemente, ci mostra come si può essere dei re anche se si è in prigione. Allora, la democrazia, e la democrazia per democrazia intendo il tipo di governo che garantisce la pari dignità delle persone, cioè che garantisce l'essenza della giustizia. Se non c'è la pari dignità, tutto è ingiusto. Il rapporto tra genitori e figli, tra figli e genitori, tra fratelli, il rapporto tra insegnanti e allievi. In certe scuole i padroni sono gli allievi, in altre sono gli insegnanti, ma è raro trovare dei luoghi dove si coopera in modo armonico, in cui si vive pienamente. Guardate che a 14 anni, a 15 anni o a 20 andare all'università dovrebbe essere qualcosa di gioioso. Al punto che dovrebbero metterli fuori con i cani, perché se ne escano dalle aule. E invece no, e invece le persone arrivano all'università a mezzogiorno oggi. Perché ci vanno a fare prima? Non hanno nessuna. Però quando Carlo Sini insegnava, e quest'altro ragazzo si alzava alle 6 in 3 giorni della settimana. Cristiano gli dice: scusa, ma perché ti alzi così presto? Devi andare all'università? Che ora? Ci deve essere alle 7. Come alle 7? È impossibile. No, io vado per prendermi il posto a lezione. E perché alle 8 arrivava Carlo Sini e l'aula era piena così. Ma secondo voi, perché Carlo Sini gli dà dei soldi? Gli dà delle carezze sulla testa? Gli dice: quanto siete bravi, gli versava il latte, cosa faceva? No, Carlo Sini semplicemente parlava in modo onesto. Era una persona che faceva onestamente il proprio lavoro di insegnante. E infatti, se andate nel blog di Carlo Sini, dice: beh, sapete, io ho avuto la fortuna di incontrare dei maestri. dei maestri nel campo della filosofia. E lui dice, 2 ore con un maestro valgono 2 anni di lavoro da soli. E infatti, se state vicino a Carlo Sini, capite il perché. Perché vi può parlare di qualunque cosa. Una volta eravamo a un convegno, la faccio breve, di musicoterapia, dove si discuteva che cos'è disabilità. E nella cultura benevola dell'handicap si accapigliavano tutti. Non sbadagliavano le mani per semplice decenza, ma si odiavano, si vedeva. A un certo punto, perché non erano d'accordo, a un certo punto Carlo Sini, che era lì, disse, sentite, io sono un filosofo e secondo me l'idea che cos'è disabilità, io ce l'ho chiara. Disabile è chi non sa essere felice. Punto, fine. Fine la discussione. Chi non sa essere felice è un disabile, perché l'abilità consiste nel generare dentro di sé felicità. E cos'è la felicità? È generare dentro di sé relazioni armoniche, dentro e fuori di sé. Quella è la persona felice. Non è il virtuoso di violino o il cantante rock, o può essere la persona più felice della terra. La persona felice è colui o colei che segue i dettami della natura, che poi seguono anche i gatti, che sono maestri di felicità, i quali vivono bene, per quanto possono. Ecco, vi ho detto perché è importante capire l'essenza delle cose. Come mai degli studenti si alzano alle 6 del mattino per andare a sentire Carlo Sini? Ma perché in quella facoltà non si è chiesto come mai da lui ci vanno e da me non ci viene nessuno?